tuo sorriso spegne i tormenti, le domande a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, oh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Eh sì, penso proprio bellissimo. A proposito di Tiziano Ferro, ad un anno dal suo coming out con un libro appena pubblicato e l'album L'amore è una cosa semplice, naturalmente ancora in vetta alle classifiche, racconta al settimanale Gioia del suo compagno. Con la sua presenza è cambiata perfino la mia voce, dice, dato che questa è vicina al suo cuore ed è condizionato da come stai. E ancora, continua il cantante, sono immerso in una storia che mi rende felice. E se fossi padre, penso che ai miei figli impartirei disciplina, ma sempre con tenerezza e amore. E poi continua descrivendo il suo fidanzato, che dice che è talmente educato che va quasi in punta di piedi. Se non è invitato, tende a stare in un cantuccio. Gli chiedo di fare le cose in modo che io non scambi la sua riservatezza per mancanza di interesse. Bene, noi siamo contenti per Tiziano Ferro, che sta bene, che ha trovato l'amore e che quindi sia sereno. Quindi poi un grande artista come lui naturalmente se lo merita. E adesso continuiamo noi, come dire, sempre con la bella musica di CRM. E adesso ci muoviamo un po', sì, ci muoviamo proprio un po'. Sapete perché? Beh, lo scoprirete subito. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, treba! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. E comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Só vocês agora. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? E su questa canzone naturalmente saluto Rambo ed Enzo che ci seguono sempre, quindi un bacione grande a tutte e due. Vi ricordo che sono ancora aperte le selezioni per il secondo corso di formazione radiofonica, naturalmente organizzato da CRM Piredio con il patrocinio del comune di Cefalù. Se volete partecipare, inviate il vostro curriculum a formazione@crmepiredio.it e come dico sempre, in bocca al lupo a tutti quanti. Vado via,

Without you, senza di te, come farò mai? Voi come farete senza di me, no? Vabbè, non piangete, ci sono ancora, sì, a tenervi compagnia. Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce e rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Ingiallita è tutto quel che ho. E non capisco se ridevi o no. Qui trafitto sulla terra steso me ne sto. Ancora qua. Stavo guardando al solito mio, no? Delle notizie. E mi sono soffermata su una notizia un po' così curiosa, devo dire, no? Sapete perché? Perché a quanto pare, no, la distrazione costa cara, sì. Ne sa qualcosa, infatti, un aspirante rapinatore di Londra. Pensate, no? L'uomo stava per riuscire a rubare 700.000 sterline in contanti in una filiale della Halifax Bank nella capitale inglese. Ma l'inesperienza e il nervosismo lo hanno tradito, ahimè. Infatti, il rapinatore ha chiesto al cassiere di mettere i contanti nella borsa che gli stava consegnando. Solo che invece di passare al cassiere la borsa, gli ha dato l'oggetto che teneva nell'altra mano. Praticamente gli ha dato la pistola. Il cassiere, diciamo che all'inizio un po' è rimasto stupito da questo clamoroso errore del rapinatore, dato che non capita spesso di trovarsi un rapinatore che chiede: metti i soldi in questa pistola o ti prendo a borsettate, in effetti, voglio dire. Lo stupore del cassiere però quindi ha spinto il rapinatore a rendersi conto che qualcosa non andava e si è reso conto di cosa aveva fatto. Il rapinatore allora ha cercato di riprendere la pistola, ma ormai questa era già nelle mani del cassiere, quindi il goffo rapinatore praticamente si è dato alla fuga con una bicicletta che aveva parcheggiato fuori dalla banca. Ma guarda te che rapinatore distratto, anziché consegnare la borsa da mamma mia, gli dà la pistola, cioè proprio... un po' imbranato, devo dire, un po' imbranatelle, vabbè, però fortunatamente è andato tutto bene, meno male, meno male. E noi continuiamo sempre con la bella musica, naturalmente sempre in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme in compagnia di Jerry. Watch sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there, I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts going, the words start flowing. Oh, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learn to treat the people I love like I wanna be loved. Tornata in studio, naturalmente in diretta su CRM Happy Radio, all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in compagnia di Jerry. Vi ricordo ancora i numeri per le vostre richieste, le vostre dediche: il 335-5637-251 e ancora lo 0921-923292. Potete seguirmi in diretta streaming sul sito www.crmhappyradio.it. Casa tracolla, due occhi, due orecchie, due ruote, due zip. Sogni lontani, avanti dai, parlare e raccontare tutto quello che hai. La mia valigia, casa perfetta, il massimo dal minimo, indispensabile, note, parole, rimedi del cuore, e vivere in viaggio è un atto d'amore. Sui vetri del mare, del mare. Ah, oh, il vento spinge i viaggiatori a nei mille mondi tra dentro e fuori. Oh, un labirinto di pensieri, lasciate spazio ai sognatori. Perfetti nascosti nel buio, nascosti nel caos, dentro di me, viaggiare e sognare è un atto d'amore. Litfiba, la mia valigia, questo è il nuovo, l'ultimo singolo dei Litfiba che ritornano assieme dopo 13 anni. Vi ricordo ancora una volta che sono ancora aperte le selezioni, comincio con le fave. Fino al 18 febbraio per il secondo corso di formazione radiofonica, naturalmente organizzato da CRMP Radio con il patrocinio del comune di Cefalù. Il corso ha una durata di 4 settimane e poi verrà rilasciato naturalmente un attestato di partecipazione. Mandate il vostro curriculum a formazione@crmpradio.it.

siete sempre qui in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme in compagnia di Jerry per un'altra mezz'oretta da trascorrere, sempre con tanta bella bella musica. Adesso facciamo un passo indietro, un po' indietro, andiamo a rispolverare qualche vecchio successo di una grande artista come Gianna Nannini. Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu ti telefono, no, ti telefono, no. Poi vola le cantine, mi telefoni o no, mi telefoni o no. Chissà chi vincerà. Poi se ti diverti, non la metti da parte un di felicità. Anche tu, io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia. Anche tu, ti telefono, no, ti telefono, no. Io non cedo per prima. Mi telefono, no, ti telefono, no. Chissà chi vincerà. Soltanto un po' di più. Anche tu, io vorrei toccarti, ma più mi avvicino e più non so chi sei. Anche tu, ti telefono, no, ti telefono, no. Io non c'ero per prima. Mi telefono, no, mi telefono, no. Chissà chi vincerà. Mi telefono o no? Mi telefoni sì o no? Deciditi. A proposito di telefoni, no? Un tempo, diciamo che il telefono era galeotto e complice di interminabili dichiarazioni d'amore. I tempi però sono cambiati, visto che il telefono è diventato lo strumento ideale per litigare. Il 34% dei single infatti ammette di aver bisticciato con il proprio ex per via telefonica, per non parlare di quelli che invece per troncare un rapporto si limita ad un banale SMS, ma dico non va bene, cercate un po' di avere più coraggio e di affrontare la situazione come giustamente persone adulte, basta parlarsi e chiarirsi. Le controversie infatti che si innescano al telefono sono spesso quelle che tendono quindi a diventare più forti, visto che non c'è la possibilità di chiarire guardandosi dritto negli occhi, quindi ancora una volta consiglio di parlarsi faccia a faccia, di chiarire e vedere cosa che succede, insomma. A seguire, tra i luoghi più che scatenano le furie di partner, mariti e fidanzati ci sono i centri commerciali e i supermercati. I centri commerciali a loro volta mettono in evidenza i differenti interessi dell'uomo e della donna, che finiscono per vedersi come appartenenti a mondi diversi e troppo distanti per trovare un punto d'incontro. Mamma mia, mamma mia. E vabbè, pazienza, così è, insomma, dai. Però ricordo sempre, cercate comunque di chiarire. È meglio sempre comunque parlare e non lasciare mai una persona al telefono. Non va bene. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. The dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I'm so weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So hang me smooth, sway. Porto i lividi, ma non ci penso più. Ho preso ed ho perso, ma guardo avanti, sai dove cammini tu. Dimmi, ti diranno che sono una pazza, è il prezzo di essere stata sincera. di tempo ne ho perso, certe occasioni sai che non ritornano, ma fa bene lo stesso. Se la mia dignità è ancora giovane, dimmi, ti diranno che non sono ambiziosa, è il prezzo di amare. Su questa canzone saluto un certo Bau Bau Micio Micio, che si firma così naturalmente dal nostro sito, ha fatto la richiesta dal www.crmpradio.it. Ma scrivi il nome, voglio dire, Bau Bau Micio Micio, che vuol dire? Dai, fatti, firmati, eh. Shakira, devo dire che ultimamente è molto molto rabbiosa. Voi sapete perché? Beh, perché pare che in giro ci sia un video hard di Shakira con il fidanzato Gerard Piqué. La notizia, diciamo, si è diffusa da, è stata diffusa da TV Notas e poi rilanciata da TG.com, sta praticamente impazzando sul web. Anche perché il video sarebbe finito nelle mani di una dipendente della cantante, che ora ricatta la coppia minacciando di rendere tutto pubblico. Ma dico, i fatti propri no, dovete per forza farvi i fatti degli altri. E vabbè, giustamente questa vuole ricavarci naturalmente un bel gruzzoletto, ma non si fa, non si fanno queste cose, no no no, fatevi i fatti vostri che è meglio, eh. Io dico sempre così, fate i fatti vostri che è molto molto meglio. Ancora altri 10 minuti e poi naturalmente, ahimè, ci dovremmo salutare, però tranquilli perché io ritorno sempre, ritornerò sempre lunedì e continuiamo con la bella musica. Dammi lo spazio. Non lo so che cos'hai, so quella che fa per me. Ed è stile ormai che io diventi quello che fa per te. Aspettavo, sai, da tanto tempo ormai, che quasi non ci credevo. Era l'ultima canzone per quanto riguarda questo pomeriggio, sempre in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme. Sì, siamo arrivati alla fine. Intanto vi ricordo che ritroveremo naturalmente lunedì, sempre a partire dalle 15 sino alle 17. E non mi resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con i programmi naturalmente sempre di CRMP Happy Radio. Vi auguro una magnifica serata e un buon weekend, e soprattutto, come dico sempre io, fate i bravi. Ciao ciao, baci baci. Semplicemente.